Letture di Radio 24. Alla PM che gli chiede se si riconosca nella definizione di libertino, Dominique Strauss-Kahn risponde volentieri. Un sussulto d'orgoglio, commenta Annalisa Chirico su Panorama, che dimostra come dei propri vizi ciascuno dovrebbe rispondere solo alla propria coscienza e non a un giudice pronto a trasformare il vizio privato in una pubblica gogna. Se una cameriera del Sofitel di New York non lo avesse accusato di stupro, oggi Dominique Strauss-Kahn sarebbe con ogni probabilità il monarca repubblicano di Francia. Ma l'infamante accusa, che si sgretolò nel giro di 3 mesi con la richiesta di assoluzione formulata dalla procura e accolta dal giudice, mise la parola fine ai sogni di Eliseo del banchier socialista. Non gli fu risparmiato neppure il perp walk, la passeggiata in manette davanti alle telecamere. Ci sono voluti più di 3 anni perché un tribunale italiano cristallizzasse in una sentenza l'ABC di una democrazia liberale. I peccati non sono reati. I vizi, anche i più osceni, si possono criticare ma non costituiscono materia per processi penali dall'effetto mediatico assicurato. Parlo di Silvio Berlusconi e del Ruby Gate. Quanto costò all'ex presidente del Consiglio il linciaggio mediatico di stampo puritano tutto fondato sull'autopsia della morale? La stessa perbenista autopsia che ha umiliato e affossato l'ex numero uno del Fondo Monetario Internazionale. Strana sorte quella di Berlusconi e Strauss-Kahn. Entrambi, il self-made man brianzolo e l'uomo di establishment francese, imputati alla sbarra per presunte maialate di letto. Come non ricordare che Strauss-Kahn, impallinato da una cameriera di colore tanto risentita quanto inattendibile, 4 giorni dopo rassegnò le dimissioni dal Fondo Monetario Internazionale. Come non ricordare le piazzate taliban femministe invocanti il passo indietro del capo del governo italiano. Pruriginosa diffamazione sublimata dalla risatina Sarkozy-Merkel. Eppure, né Berlusconi né Strauss-Kahn hanno mai celato la debolezza per il gentil sesso. Ma il cotè privato di uomo gaudente, la lussuria sfogata tra le pareti di una camera da letto, possono valere una persecuzione giudiziaria e mediatica? A Mosul, roccaforte dei barbuti integralisti adoratori di Allah, certamente sì. In un boccaccesco parallelismo, mentre a Bari riprende la passerella di giovani donzelle interrogate sui divertimenti scollacciati presso la dimora dell'ex premier, a Lille ha inizio la messa in scena inquisitoria con Strauss-Kahn, accusato di sfruttamento aggravato della prostituzione per 17 indecenti orge a pagamento. Per lui, come per il cavaliere, non c'è traccia di soldi pubblici impiegati a fini privati né di violenze sul corpo di donne inermi. Per paradosso, le puttane d'alto bordo ben remunerate diventano vittime del maschio erotomane e alla domanda del PM, donna, se lui si riconosca nella definizione di libertino come colui che si abbandona ai piaceri carnali con una libertà che supera i limiti della morale convenzionale e della sensualità borghese normale, Strauss-Kahn risponde, volentieri. Un sussulto di orgoglio. Come a dire che dei propri vizi ciascuno risponde, se vuole, alla propria coscienza, non certo ad una toga. A qualcosa, però, i processi contro il vituperato consumo sessuale sono serviti. Sputtanando l'uno e l'altro, abbiamo scoperto che l'antica antinomia tra comandare e fottere non si regge. Chi comanda, fotte e comanda alla stregua di chi non comanda un bel niente. Insomma, fottiamo tutti. Eppure François Hollande, a pensarci bene, non si è rivelato uno stinco di santo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonella Chirico, Vizi privati e pubblica gogna, da Panorama dell'11 febbraio. Letture di Radio 24. Da anni ci si domanda se il narcisismo sia una malattia. Per quale ragione oggi ci sembra di non vivere se non ci facciamo un selfie in ogni occasione? E perché diventiamo dipendenti dal numero di mi piace che riusciamo a ottenere sulla nostra pagina Facebook? L'ultimo numero di Focus dedica un dossier all'epidemia di narcisismo che sta contagiando il mondo. si sentono liberi, speciali, al centro dell'universo. Sono convinti di bastare a se stessi. Vivono qui e ora, alla ricerca costante di nuove sensazioni. Sono ossessionati dalla celebrità e dall'attenzione degli altri. Controllano ogni giorno il proprio pubblico su Facebook, la dieta, i vestiti, il corpo palestrato, siliconato o tatuato. Sfuggono dall'intimità. I rapporti di amicizia o di coppia sono usa e getta. Non credono in niente, convinti che tutte le opinioni siano uguali. Non hanno passato e temono il futuro, nel quale intravedono solo epidemie di Ebola, cambio climatico, terrorismo, crisi finanziaria. E alla prima difficoltà vanno in frantumi. Questo identikit vi ricorda qualcuno? Vostro figlio, un collega, il vicino di casa? Non è un caso, perché secondo molti ricercatori è il ritratto delle generazioni di oggi. Viviamo in un'epoca di narcisismo epidemico. Jean Twenge, psicologa dell'Università di San Diego, ha ribattezzato i giovani «generazione me», perché centrati sul proprio ombelico. Sono più sicuri di sé e più infelici che mai, perché la loro autostima è fondata sul nulla. L'affermazione ha suscitato le reazioni allarmate di molti educatori. Non ci sono più valori universali, spiega Vanni Codeluppi, docente di sociologia dei processi culturali allo IULM di Milano. Siamo diventati una società di massa omologata dai consumi. Quindi ognuno deve arrangiarsi, costruire la propria identità meglio che può, e ci si concentra su di sé. È la vetrinizzazione sociale. Si mette in mostra se stessi come un prodotto fra tanti. Da qui nasce il culto per l'aspetto fisico e per l'apparire. L'ossessione per stare su Facebook è il sintomo, non la causa di questo scenario. A ciò, dicono molti sociologi, si aggiunge il ruolo dei genitori, che non educano più i figli all'impegno e al sacrificio, ma soddisfano ogni loro desiderio. Li proteggono e li trattano come speciali, unici, a prescindere da come si comportano. E così l'autostima diventa un diritto, non una conquista. Da queste radici è germogliato l'odierno mondo liquido, come l'ha definito il sociologo polacco Zygmunt Bauman. Non ci sono più certezze, tutto diventa fluido, la vita è omologata, tutto diventa merce su scala globale. Anche le relazioni sociali. È facile innescare contatti e altrettanto facile troncarli alla prima avvisaglia di insoddisfazione. I rapporti diventano light, leggeri e disimpegnati. Il risultato? Un diffuso senso di solitudine e un'elevata fragilità. I narcisisti sono annoiati, indifferenti a tutto e alla prima delusione crollano. Si tuffano nelle droghe o cercano conforto negli antidepressivi. Non è un caso che ambo i fenomeni siano in aumento. L'interpretazione è suggestiva, ma i dati? È sempre una forzatura applicare a una collettività il narcisismo, che è una categoria culturale individuale, conferma Marino Niola, antropologo della contemporaneità all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dire che viviamo in un'era narcisista è però una metafora utile perché aiuta a capire alcuni fenomeni di oggi. La nostra è un'epoca di crisi simile all'ellenismo, quando Alessandro Magno impose la cultura greca nei territori asiatici sottomessi dal suo impero. Anche quella fu un'epoca di globalizzazione, di mescolanza di culture, di caduta degli dèi. Un'era di smarrimento e di autocontemplazione. Il nostro, dunque, è uno smarrimento 2.0. Se ci siamo persi, come possiamo ritrovarci allora? Dovremmo recuperare il senso di appartenenza a una comunità, risponde Marco Aime, docente di antropologia delle società complesse all'Università di Genova. Rispetto ad altre culture, per esempio quelle africane, noi occidentali siamo isolati. Abbiamo 1000 amici su Facebook, ma non sappiamo con chi uscire il sabato sera. Quando viaggiamo in treno, ognuno è chino sul proprio smartphone, ma non parla col vicino. In Africa, invece, le persone hanno tanti problemi, ma nessuno è solo. Se cammini per strada a Timbuktu, trovi sempre qualcuno che ti invita a fermarti e a sederti, perché è bello conoscersi. Perché, dice un proverbio locale, la chiacchiera è preziosa e nell'aldilà non c'è. Il crollo dei grandi movimenti politici e religiosi, ma anche lo sviluppo delle grandi città, ci ha isolati. Oggi l'unica offerta collettiva è rappresentata dai movimenti New Age o dall'Islam. Purtroppo però quello violento che usa il web come vetrina narcisistica per le proprie imprese sanguinarie. dovremmo investire di più nella società vera, quella offline, e promuovere nelle città la creazione di spazi di incontro aperti e protetti, come gli oratori di una volta. Ma occorrono anche una nuova cultura, nuovi modelli educativi. Dobbiamo riflettere su chi siamo e chi vogliamo diventare, aggiunge il professor Niola. I politici si sono arresi all'economia e non esprimono più alcuna idea di società. Gli adulti imitano i giovani e i giovani, invece di usare la rete, si lasciano usare da essa diventandone dipendenti. Sono certo, comunque, che troveremo una misura. La via d'uscita verrà col tempo. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Vito Tartamella, Una società allo specchio, dal numero di febbraio del mensile Focus. È diventato virale in pochi giorni il video della litigata in diretta durante la puntata dell'8 febbraio dell'Arena tra il conduttore Massimo Giletti e l'ospite Mario Capanna. Il tema era quello dei vitalizi acquisiti e la polemica riguardava il fatto che l'ex leader di Democrazia Proletaria è uno dei firmatari del ricorso al TAR contro il taglio del 10% del vitalizio, che Capanna percepisce da oltre 20 anni per essere stato deputato in due legislature. Nel suo blog sul sito della rivista Micromega, Matteo Pucciarelli si domanda come sia possibile, di fronte ai tagli di scuola e università e all'innalzamento dell'età pensionabile, che si definisca diritto acquisito, come ha fatto Capanna parlando della sua pensione d'oro, quello che di fatto è un privilegio riservato a pochi. C'è un video che da domenica scorsa gira dappertutto. E non è edificante. Premessa. Giletti, nelle vesti di difensore della lavoratrice che muore per sfamare la prole, non è credibile, ma penso lo sapessimo tutti da tempo. Oltretutto, Giletti di lavoro, bene o male, non è questo il punto, fa il giornalista. Né ha mai voluto incarnare alti ideali di progresso. E quindi, a parte stigmatizzare il gesto di gettare un libro per terra, che altro dire su di lui? Invece, il ragionamento intorno a Mario Capanna, già leader del 68 e di Democrazia Proletaria, merita qualche riflessione in più, soprattutto molta autocritica a sinistra. Senza tirare in ballo le banalizzazioni sui rivoluzionari da salotto, sui radical chic, sui falsi profeti della sovversione, senza voler dire peste e corna su battaglie e battaglieri di allora. Il punto in sé è di una semplicità unica. È giusto, per chi si dichiara ancora oggi di sinistra e vicino quindi alle classi subalterne, quelle che oggi pagano il prezzo della crisi, menare un 48 contro il taglio del 10% per 3 anni del proprio generosissimo vitalizio? È politicamente opportuno, di fronte ai tagli a scuole e università, di fronte all'innalzamento dell'età pensionabile, di fronte a una generazione che la pensione non la avrà forse mai, parlare di un diritto acquisito, riferendosi a quello che universalmente e oggettivamente è considerato un privilegio riservato a pochi ex eletti? Nessuno contesta a Capanna il ricevimento del vitalizio, ci mancherebbe. Se ne contesta però la battaglia ideologica contro una piccola riduzione, e in questo caso l'ideologia è quella del culto personale del proprio particolarissimo tornaconto. Ma in realtà non si parla neanche di Capanna o di chi altro in questi casi. Si parla dei danni incalcolabili che alcuni atteggiamenti nel corso degli anni hanno prodotto a sinistra. Danni che oggi non permettono a quella stessa sinistra di risultare credibile anche quando dice cose giuste e di buon senso. Parlando di Beppe Grillo, Pablo Iglesias di Podemos spiegò: «Ci dividono molte cose, ma gli riconosco un merito. Essere riuscito, come diceva Gramsci, a connettersi con lo stato d'animo del suo tempo». È esattamente quello che la sinistra italiana non riesce a fare da decenni. Non capire, ad esempio, che nel 2015 all'italiano medio, sì, esatto, quello di Maccio Capatonda, fa più effetto un politico sobrio di un politico che passa 2 ore fuori da una fabbrica semivuota. È triste? È amaro? Probabilmente sì, ma è così. Non voler vedere, non voler capire, accusare il popolo di becero populismo senza essere capaci di accondiscendere di fronte a una richiesta sconnessa ma sacrosanta di trasparenza, di fine dei piccoli privilegi, chi aiuta? Di chi si fanno gli interessi girandosi dall'altra parte? Non serve a niente urlare contro la casta finanziaria se i tuoi discorsi non vengono neanche presi in considerazione, perché a torto o a ragione sei considerato parte di una casta politica o sindacale. Era populismo lo spirito francescano di democrazia proletaria che permetteva ai propri deputati di trattenersi lo stipendio di un operaio metalmeccanico? È populismo lo stipendio di 1.700 euro che gli europarlamentari di Podemos trattengono per sé? È populismo il 20% di stipendio che gli eletti di Syriza versano a Solidarity for All? Contano le pratiche, prima delle parole, le piccole cose, prima dei grandi enunciati. Il personale, come si diceva una volta, è politico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Matteo Pucciarelli, Il populismo, Gramsci e Mario Capanna, pubblicato il 9 febbraio sul sito Micromega Online. Andare a letto a notte fonda rende più difficile allontanare i pensieri negativi. È quanto emerge da una ricerca condotta dalla Binghamton University di New York. I ricercatori hanno rilevato con test e questionari su 100 volontari che chi dorme meno e si corica molto tardi tende ad avere più spesso pensieri negativi e ripetitivi rispetto a chi spegne la luce prima. È disturbato cioè da pensieri pessimistici, intrusivi, che sembrano ripetersi nella mente e si preoccupa troppo per il futuro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tardi a letto si rimugina, dal numero di febbraio del mensile Focus.